A bordo campo di Dario Ricci. Milanese, classe 1955, giornalista, manager e dirigente sportivo, attualmente presidente della Lega Calcio di Serie A. Ospite oggi a bordo campo Maurizio Beretta. Benvenuto presidente. Benvenuti a voi e grazie soprattutto per l'ospitalità e grazie agli ascoltatori. Allora presidente, come sa a bordo campo ci piace un po' scrutare nei fondi dello sport italiano per capire un po' presente e futuro. In particolare quindi in questa occasione parliamo con lei del presente e del futuro del nostro calcio. Siamo reduci da uno sciopero dei calciatori scampato all'ultimo momento, direi pericolo appunto evitato sul filo di lana, no presidente? Sì, no, sarebbe stata onestamente un'iniziativa, come hanno detto moltissimi anche calciatori, senza senso. Noi stiamo cercando di costruire insieme un futuro solido, sostenibile per il calcio italiano. Questo è interesse evidentemente dei club, ma è interesse allo stesso modo dei calciatori ed è interesse di tutti gli appassionati italiani. Quindi io credo che si debba fare un lavoro importante, un lavoro d'intesa con tutte le parti interessate. Questo accordo collettivo è un primo importantissimo passaggio, ma dobbiamo continuare a guardare a questo obiettivo. Resta ancora da sciogliere quello che era stato il principale nodo del contendere, no? Cioè la questione dei giocatori poi fuori rosa o che voi, diciamo, voi presidenti, voi della Lega Calcio definite come quella degli allenamenti separati, su cui con l'Asso Calciatori vi siete dati appuntamento nei prossimi mesi. Possibili soluzioni allo studio, perché poi su quel tema bisognerà ritornarci. Ma le soluzioni io penso siano chiare e a portata di mano, perché una volta che sono finiti i segnali di fumo distorsivi, in realtà la pensiamo in maniera non così diversa. Noi siamo convinti che le società, i club, gli allenatori in particolare abbiano bisogno di poter articolare gli allenamenti, diciamo, se si ritiene in più gruppi, disarticolando in maniera funzionale magari ai ruoli o ai modelli di allenamento, rose che sono in molti casi molto grandi, ci sono società che hanno 35-40 giocatori, oggettivamente pensare di allenarli tutti insieme non è realistico. Vogliamo che questa possibilità di organizzarsi secondo le esigenze sportive non abbia nessuna possibilità di essere utilizzato in maniera strumentale per discriminare qualcuno o fare, come si dice oggi, del mobbing. Quindi io credo che stiamo parlando di una cosa ragionevole, ancora una volta, ripeto, nell'interesse di tutti. Penso che finite le contrapposizioni ideologiche, se vogliamo dirla così, non sarà difficile trovare una soluzione. Bisogna anche sottolineare che non è solo il calcio nostrano che soffre di queste tensioni, no? Fra chi gestisce il business, chi gestisce lo sport e chi ne è protagonista, cioè i calciatori. Mi riferisco alle tensioni che attraversano ad esempio lo sport professionistico americano, a rischio sciopero il football americano, il basket NBA. Segno insomma che lo show business sportivo mostra segni di cedimento un po' a tutte le latitudini, presidente? No, direi al contrario, non mostra segni di cedimento, perché direi l'attenzione degli appassionati è sempre crescente. Per quanto riguarda poi il campionato di calcio italiano, sono in continua crescita gli ascolti televisivi e, malgrado impianti veramente obsoleti, riusciamo tutto sommato a mantenere le presenze negli stadi sui livelli degli anni precedenti. E il problema è che devono essere meccanismi sostenibili. Negli ultimi 15 anni, parlo per il calcio italiano, ma vale per in molti casi anche per gli esempi che sono stati citati, l'affacciarsi e poi l'affermarsi prepotente delle pay TV ha consentito un'enorme crescita dei ricavi. Questa enorme crescita dei ricavi è andata tutta, devo dire, sostanzialmente alle componenti sportive, cioè diciamo ai giocatori, agli allenatori, ai procuratori. Questo meccanismo, come dire, non è evidentemente più sostenibile, anche perché il dato di crescita che abbiamo registrato negli anni scorsi non è riproponibile. Pensiamo, insomma, che in 15 anni i diritti TV sono passati da 100 milioni l'anno a 1 miliardo di euro l'anno, quindi moltiplicati, diciamo, 10 volte tanto, e non è un dato ripetibile. Quindi dobbiamo costruire delle condizioni, diciamo, ripeto, di sostenibilità economica per garantire un futuro equilibrato a grandi fenomeni sportivi che hanno una sempre maggiore attenzione da parte degli appassionati dell'opinione pubblica, ma che proprio per questo devono imparare, diciamo, a vivere con le proprie gambe e non pensando che poi arriva un presidente mecenate che ripiana delle perdite di esercizio. Questo è stato possibile in passato, non lo sarà più in futuro, anche per le norme UEFA che noi condividiamo, e quindi dobbiamo costruire, diciamo, progressivamente ma in tempi rapidi, perché le norme UEFA entrano progressivamente in vigore nel triennio, diciamo, che stiamo vivendo, e quindi dobbiamo, ripeto, costruire condizioni di equilibrio. Per dirla in termini economici, non abbiamo nessun problema sul versante della domanda, abbiamo dei problemi interni al sistema di gestione dei costi, li dobbiamo affrontare con grande senso di responsabilità, tutte le componenti. Ecco, Presidente Beretta, faceva riferimento alle pay TV e allora tocco un nervo scoperto parlando di questo anticipo delle 12.30, no? Che insomma è stato venduto un po' sul mercato anche come un'apertura ai mercati televisivi asiatici. Ora io faccio un po' fatica a immaginarmi la famiglia Wang che alle 8 di sera a Pechino, bacchette e ciotola di riso in mano, si blocca davanti al televisore per vedersi Lecce-Brescia. Come stanno realmente le cose, Presidente? Insomma, questi mercati asiatici dal punto di vista televisivo stanno rispondendo in qualche modo, oppure è stata piuttosto un'apertura ulteriore alle TV nostrane? Diciamo, le due cose non sono in contraddizione, non sono in alternativa. Ovviamente si è fatta un'operazione che in prospettiva può essere, diciamo, molto utile alla crescita del calcio italiano nei paesi del Far East, che hanno una forte domanda di calcio di alto livello e hanno una, diciamo, grande attenzione ai campionati più prestigiosi, quello italiano, quello inglese, quello spagnolo, e quindi è giusto cominciare a fare un lavoro che guarda ad un investimento su quei mercati, che sta già vendendo meglio che in passato i diritti su quei mercati e che quindi, come dire, va incontro alle esigenze, diciamo, degli appassionati, del pubblico televisivo. Questo ha anche un risvolto molto positivo e molto importante sul mercato domestico. Noi abbiamo, diciamo, risultati molto molto importanti anche sul piano domestico, diciamo, per queste partite di mezzogiorno e mezzo. Tanto per dare un dato, siamo ormai con telespettatori che superano di media 1,5 milioni, e negli stadi abbiamo presenze assolutamente allineate alla media, diciamo, di quello stadio, quindi di quella squadra, quando gioca anche alle altre ore. Allora, mi sembra di poter dire che è una innovazione che piace al pubblico degli stadi, che piace moltissimo al pubblico televisivo, che va nella direzione di una crescita sui mercati extraeuropei. Francamente non vedo nessuna controindicazione e non riesco, diciamo, onestamente a condividere nessuna delle critiche, poi, diciamo, non di merito, ma un po', come dire, pregiudiziali che qualche volta si leggono su questa innovazione. Come sa, Presidente, a noi di Radio 24 piace il basket, anzi ci piace proprio parecchio. E allora, immaginando, come per esempio il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha fatto in questi giorni, un calcio italiano sul modello NBA, punto su cui tra l'altro poi ritorneremo in modo più approfondito, è ipotizzabile in un futuro che magari alcune giornate di campionato, alcune partite della nostra Serie A possano essere disputate all'estero? Perché in fondo l'NBA lo sta facendo, anche se chiaramente con un calendario diverso, uno spettacolo diverso, però è un'ipotesi a cui state magari già lavorando? Ma io penso che noi dobbiamo metterci nella condizione di guardare con molta apertura a ipotesi di innovazione che dovranno essere necessariamente più accelerate e anche più frequenti di quelle che probabilmente abbiamo visto in passato. Questo perché, ripeto, disponiamo di un prodotto di eccellenza e dobbiamo guardare a come valorizzarlo al meglio in tutte le direzioni. Quindi ad oggi non abbiamo elaborazioni in quel senso, ma io credo che dobbiamo valutare e approfondire progetti innovativi per valorizzare in tutte le direzioni un prodotto di eccellenza che abbiamo. Oggi il calcio italiano, che se ne dica, è ai vertici del calcio mondiale. Tutte queste cose danno un grande valore alle nostre competizioni e noi dobbiamo guardare a come valorizzarle al meglio. Ovviamente sono meccanismi che devono essere approfonditi, condivisi dai club, raccordati con appunto le istituzioni sportive sia italiane che europee. Quindi ecco, per sintetizzare, capitasse l'occasione buona dal punto di vista sportivo e commerciale, quell'Inter-Lazio che abbiamo visto a Pechino come Supercoppa potrebbe essere benissimo un Inter-Lazio di campionato giocato sempre nello stadio del Nido di Pechino in un prossimo futuro. In termini teorici continuo a dire che sono meccanismi che possono essere approfonditi, non sono evidentemente delle innovazioni semplici perché comportano tanti problemi di carattere progettuale, organizzativo, di allineamento del campionato e delle singole giornate, però noi già in questa direzione stiamo lavorando. Anche quest'anno la finale della Supercoppa italiana si giocherà in Cina, proprio perché c'è una forte domanda in quel mercato del calcio italiano, che viene anche molto apprezzato dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo, ancora col nostro ospite d'eccezione di giornata, il presidente della Lega Calcio di Serie A, Maurizio Beretta. Presidente, prima della pausa ci siamo lasciati, stiamo parlando del possibile approdo futuro all'estero anche di partite della Serie A sul modello NBA, no? Immaginando un campionato italiano come l'NBA. In realtà il ruolo che lei svolge sembra ancora un po' diverso da quello che ricopre il commissioner David Stern, che pur essendo a libro paga delle franchigie NBA, insomma, ha già conquistato nel ruolo un'autorevolezza e una capacità gestionale che insomma ce lo consenta. Vederla confrontarsi tutti i giorni con vulcanici presidenti come Zamparini, Lotito eccetera eccetera sembra ancora da acquisire. Da questo punto di vista la Lega ha allo studio una definizione ulteriore proprio della sua figura come status del presidente, se sì con quali poteri ulteriori? No, io penso che noi non abbiamo una questione che riguarda i poteri, non abbiamo un modello di governance, per dire così, molto chiaro e anche molto lineare. Il potere è nell'assemblea che dove siedono le 20 società, quindi i 20 presidenti, e il presidente della Lega interpreta e attua la volontà dell'assemblea. E credo che sia molto giusto che, questo modello, anche perché se andiamo a vedere le differenze tra il nostro sistema, e parlo del sistema europeo, e l'NBA, le differenze sono profondissime. Intanto per quanto riguarda le dimensioni, noi è come se dovessimo ragionare per paragonarci all'NBA a un modello di campionato europeo, con quel tipo di dimensione e quel tipo di mercato e di interessi. È quello però, presidente, che ad esempio lo stesso De Laurentiis ha rilanciato recentissimamente, ha detto: qua il modello delle coppe non mi piace più, in realtà è un modello che dal punto di vista del marketing secondo me non funziona in modo efficace, ci vorrebbe un campionato europeo aperto a 5-8 club dei paesi trainanti, e quello sì che sarebbe sarebbe un prodotto attraente. Da questo punto di vista, qual è la sua posizione? È una proposta sicuramente di grande interesse e che parte da una constatazione importante, ad esempio che nella mia personale opinione serve una presenza più vasta, più importante e certa delle squadre dei grandi campionati, campionati europei, ad esempio dentro competizioni come la Champions League. E quindi io credo che si esprima appunto un punto di vista che è condivisibile, che è interessante e che va al cuore del problema, nel senso che poi il grande pubblico europeo vuole vedere le grandi squadre italiane, le grandi squadre inglesi, le grandi squadre spagnole. Quello che fa veramente capacità di attrazione sono le squadre che appartengono a questi 3-4 grandi campionati. Pure è vero che però la riforma voluta da Platini invece è andata in tutt'altra direzione, no? Io penso che senza nulla togliere alle giuste esigenze di allargamento, anche che vanno nella direzione di promuovere il calcio di molti paesi, io però credo che su alcuni aspetti vadano fatte delle riflessioni, perché ad esempio perdere una squadra italiana o una squadra tedesca o una squadra inglese dentro la Champions è un depauperamento dell'intera competizione. Allora, da un lato è giusto guardare all'allargamento, dall'altro io penso però che dobbiamo anche essere molto attenti al valore sportivo intrinseco dei campionati più importanti e delle squadre che di quei campionati fanno parte, al valore reale dei mercati televisivi. Penso che la provocazione di Aurelio De Laurentiis sia molto importante, molto utile, perché va letta anche con uno spirito riformatore di medio termine, ma anche come un campanello d'allarme per le decisioni da prendere a brevissimo. Ponga, un dato di riflessione molto, molto importante. L'altro elemento su cui dobbiamo evidentemente ragionare e prendere atto è che appunto qui noi parliamo di una somma di campionati nazionali che hanno la loro storia, che hanno il loro delle loro istituzioni sportive, e quindi tutti i meccanismi vanno raccordati con una pluralità di soggetti, mentre come appunto lei dice, l'NBA in realtà è un unico grande campionato, un unico grande mercato, peraltro non sono di fatto previste le retrocessioni, il che dà anche una garanzia Pure quello, tutto sommato, a proporlo a tanti presidenti non sarebbe male, no? Garantirebbe una maggiore stabilità. Lo ritiene possibile quello, ad esempio? Io penso che sia di nuovo un elemento di cui ragionare con molta serenità e disponibilità con le altre componenti, in particolare con la Serie B, e deve essere comunque un elemento di riflessione per le riforme o la riforma dei campionati. Tutti vogliamo l'Europa, Presidente, però poi quando le nostre squadre vanno in Europa League fanno le figure che abbiamo visto negli ultimi anni, senza entrare nei casi specifici, però una tendenza preoccupante, soprattutto come attitudine, no? Sembra che qualcuno veda nella seconda Coppa Europea più un fastidio che un'opportunità. Faccio una provocazione, ma magari non è che la Lega Calcio possa pensare a una sorta di meccanismo sanzionatorio per chi va a fare queste figure in Europa? No, noi abbiamo fatto il contrario, nel senso che abbiamo introdotto degli incentivi per le squadre che partecipano all'Europa League. Questo sistema probabilmente va affinato legandolo in maniera più diretta ai risultati che si conseguono, anche perché l'Europa League è comunque sempre più importante, perché fornisce punteggio al ranking del singolo paese che poi porta ad avere i numeri di partecipazione alla Champions e via dicendo. Un'ultima domanda, presidente Beretta, ringraziandola già di essere stato ospite di A Bordo Campo. Sempre in tema di soldi, c'è l'altro fronte aperto, no? Quello degli indennizzi da parte delle federazioni nazionali che convocano i giocatori di club in nazionale in modo tale che vi sia una copertura economico-assicurativa in caso di infortunio. Da questo punto di vista, a che punto siamo? Se l'UEFA risponde, la FIFA che fa? Questo è un problema che riguarda in particolare il rapporto tra i club e la Federcalcio, che è poi, come dire, chi organizza le attività della nazionale. Quindi intanto noi dovremo, e credo che siamo, diciamo, vicini a dare una prima risposta a questo problema, diciamo, prevedere indennizzi e assicurazioni da parte dei, diciamo, della nazionale per i giocatori dei club che vengono appunto prestati alla nazionale, il cui rischio, diciamo, non può essere comunque lasciato e scaricato solo sui club di appartenenza. Non possiamo limitarci ad un rapporto solo con la nazionale italiana, perché evidentemente ci sono grandi campioni non italiani che giocano nei nostri club e che vengono richiamati nelle selezioni, diciamo, degli altri paesi. Qualche passo in avanti con diciamo, la concentrazione delle stagioni per le nazionali, con le giornate fisse in cui giocano le nazionali, quindi per cercare di ridurre un attimo i problemi che questo comporta per i club. Ripeto, qualche passo in questa direzione è stato fatto, io credo se ne debba fare con determinazione degli altri, perché è evidente che la partecipazione alla propria nazionale è per un calciatore, io credo, un grande onore e anche quindi un obiettivo che deve essere coltivato e valorizzato. Questo però deve essere, in termini di immagine ma anche di sostanza, un beneficio anche per il club che o ha fatto crescere o comunque fa giocare quel talento, e non può essere invece per il club soltanto una penalizzazione. Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio di Serie A, grazie per essere stato nostro ospite a Bordo Campo. Ci confessi una cosa però, presidente, in chiusura, ma lei che è presidente della Lega Calcio, se la può permettere una squadra per cui tifare, cioè la domenica davanti al televisore, ce l'ha la sua squadra del cuore o è super partes pure tra le quattro mura domestiche? No, io non ho una squadra del cuore e questo aiuta a fare questo lavoro. La mia squadra del cuore è il campionato italiano, che deve funzionare al meglio, che deve avere il massimo livello qualitativo, il massimo livello, diciamo, di servizio arbitrale. Divento tifoso accanito di tutte le squadre italiane che se la battono a livello internazionale. Allora, presidente, grazie e buon campionato. Grazie anche a voi, e penso che un buon campionato sia l'augurio e l'auspicio che condividiamo tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è come d'abitudine a domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato alle ore 6.30 del mattino. Un saluto da Dario Ricci.